America 24 di Mario Platero. I thank the people of Massachusetts for electing me as your next United States Senator. E la voce di Scott Brown, nuovo senatore del Massachusetts, si è impossessato, questo senatore dello Stato semi sconosciuto, del seggio che fu di Ted Kennedy, di un seggio democratico da 47 anni. Lo ha fatto con una maggioranza chiara, il 52% del voto contro il 47% di Martha Coakley. Una vittoria questa che rimescola le carte della politica americana e l'agenda del presidente Obama. Mr. President of the United States faithfully and will to the best of my ability and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. La sconfitta è bruciante per i democratici perché giunge il 20 gennaio, un anno esatto dall'insediamento di Barack Obama. Lo avete sentito poco fa quando giurava fedeltà alla Costituzione, dall'insediamento, dicevo, alla Casa Bianca. Un anno fa era una giornata piena di promesse, limpida, fredda, ma piena di sole a Washington. Oggi Barack Obama dovrà rivedere quasi certamente la sua intera agenda politica. And one thing is clear, one thing is very, very clear as I travel throughout the state. People do not want the $1 trillion healthcare plan. Lo sentite direttamente da Brown. Per prima cosa si andrà contro la riforma sanitaria. Di fatto, dice il nuovo senatore, è una riforma affossata. In effetti, con il suo voto i repubblicani raggiungono quota 41, i democratici scendono a 59, non hanno più quella maggioranza di 60 voti blindata che garantiva la sconfitta automatica dell'ostruzionismo da parte dei repubblicani. Si apre un nuovo capitolo e non è chiaro come andrà a finire, proprio per la promessa della riforma sanitaria. Oh, thank you so, so much. Thank you very, very much. Wow, what a great reception, what a great crowd. And I bet they can hear this cheering all the way in Washington DC. Sentiranno questi applausi fino a Washington, dice ancora Scott Brown. Di certo li sentiranno. Si è capito che questa vittoria è una vittoria motivata dalla rabbia di un elettorato insoddisfatto su molti fronti e dunque Barack Obama dovrà cambiare. Ci sarà quasi certamente una virata a destra. Si abbandoneranno piani come quello per l'immigrazione e quello per l'introduzione di un modello anti-inquinamento per lo scambio di diritti CO2 e vi sarà un attacco fortissimo al problema del disavanzo con promesse di tagli forti nella spesa pubblica. La seconda arma di Obama sarà quella del populismo, con l'idea di identificarsi con le frustrazioni dell'opinione pubblica per combatterle al fianco dei cittadini. Dagli abusi delle grandi banche si passerà a quelli delle compagnie petrolifere e poi a quelli delle grandi compagnie di assicurazione che aumentano arbitrariamente il costo delle polizze. Insomma, una piccola rivoluzione. Intanto il mercato reagisce, anzi ha già reagito. Ieri i titoli farmaceutici sono balzati al rialzo scontando proprio la vittoria di Scott Brown. Questo rialzo probabilmente continuerà in borsa fra un paio d'ore quando ci sarà l'apertura del New York Stock Exchange. In borsa intanto si parla di fusioni, in coda all'affare fra Cadbury e Kraft. La MetLife ha già fatto un'offerta, $15 miliardi per la divisione assicurazione vita della AIG e dunque la febbre delle fusioni sembra davvero riprendersi. Si parla ancora di quello che è successo fra Cadbury e Kraft. Andiamo a sentire un'analisi proprio su quello. Before long. Decided to build a proper chocolate factory. $19 miliardi per una fabbrica di cioccolato, proprio come nelle fiabe di Roald Dahl con Willy Wonka, il proprietario, il piccolo Charlie, che si perde in fiumi di latte e cacao. Chi vince oggi questa epica battaglia per la vera fabbrica di cioccolato, non quella del film con Johnny Depp, la Cadbury, il sogno di infanzia per ogni bambino, è Irene Rosenfeld, l'amministratore delegato di Kraft. Una donna decisa, dura, che dopo un assedio di 5 mesi vince contro Nestlé, Hershey e Ferrero e contro le resistenze di un suo importante azionista, Warren Buffett. Il nuovo gruppo venderà 64 miliardi di dollari, le finanze per ora non solidissime, ma il debito rientrerà in 24 mesi. La Rosenfeld del resto guarda soprattutto al mercato globale e alle sfide post-crisi dei prossimi anni. She eliminated her antitrust conditions to her deal, she got her EU approval and her US antitrust approvals. Come dice l'analista, molte sfide sul fronte antitrust che la Rosenfeld è riuscita a superare, ma la sfida più grande è ovviamente strategica. Il mercato ormai è talmente difficile sul piano globale che persino la nostra Ferrero di Alba, decisa finora a crescere solo internamente, aveva messo a punto un'offerta. La Kraft, circa 43 miliardi di dollari di fatturato, ha fra le altre cose il formaggio omonimo, le sottilette per intenderci, la crema di formaggio, Philadelphia, i prodotti Nabisco, i Ritz, li ricordate? I biscotti Oreo, il caffè Maxwell House, i biscotti Lou. Ma gli mancava la cioccolata nel senso più importante del termine e Cadbury, circa 20 miliardi di dollari di fatturato, diventa l'ago della bilancia per il suo futuro. I suoi prodotti di cioccolato sono fra i migliori del mondo e valgono l'assolo di Wonka. That's spooky. Dentro il tesoro Cadbury, Kraft trova anche la divisione chewing gum fortissima e una rete di distribuzione in America e in Europa. La Cadbury poi è il numero uno nelle confezioni di cioccolato in India, Messico, Egitto, Thailandia. I mercati emergenti contribuiscono per il 38% del suo fatturato. Solo nell'area ad alta crescita, nel mercato asiatico e del Pacifico, c'è il 20%. La Kraft ha solo il 20% del fatturato negli emergenti in modo totale. E dunque userà la rete di distribuzione Cadbury per spingere i suoi altri prodotti. Feeling very good about where we are and so I think the moral of the story is you can do well by doing good. E lei, la Rosenfeld, la vera protagonista di questa vicenda, il Willy Wonka ingornella, una donna di 56 anni che guadagna 5 milioni di dollari all'anno con una laurea in psicologia, un master in business administration, un dottorato in marketing e in statistica e una regola d'oro. Probably the most important lesson that has guided my leadership and I think has served me well is the golden rule and it's about just. La regola d'oro, dice, è quella di non fare agli altri quello che non saresti pronto a fare tu stesso. Noi tutti dobbiamo essere pronti e disponibili e soprattutto bisogna gestire un'azienda con uno straordinario senso di coesione. Non c'è stata coesione però almeno all'inizio nella battaglia con Cadbury. La vicenda comincia un venerdì dello scorso agosto. Roger Carr, il capo di Cadbury all'aeroporto a Lisbona, squilla il cellulare e lei, Irene, chiede un appuntamento, fa un'offerta ed è subito guerra. Poi, con il rilancio a 19,3 miliardi di dollari, una chiusa a lieto fine che celebriamo con la danza degli Umpa Umpa, i pigmei di Wonka, unici veri esperti della produzione di cioccolato globale. Umpa. Oompa, doompa dee dee, if you are wise, you'll listen to me. What do you get when you guzzle down sweets? Eating as much as an elephant eats. What are you at, getting terribly fat? What do you think will come of that? I don't like the look of it. Oompa, doompa, doompa dee da. If you're not greedy, you will go far. You will live. Ci sono mille altre notizie, pettegolezze, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. E con alcune di queste notizie, sempre in nome di Irene, secondo un sondaggio del Pew Research Center, le donne sono più ricche e colte degli uomini. Armi per conto di Dio. Trigicon dal 1995 produce armi per l'esercito americano e sulle bombe stampa i numeri che rimandano ai versetti della Bibbia. Hope for Haiti. George Clooney condurrà una serata di raccolta fondi per i terremotati. Ci saranno anche Sting, Bono, degli U2. Conan O'Brien lascia NBC a tasche piene. L'emittente gli darà 40 milioni di dollari per aver modificato il contratto. Il Tonight Show torna a Jay Leno. Ed eccoci al finale, la nostra canzone del giorno. Carl Smith, icona della musica folk americana, è scomparso nella sua casa di Franklin in Tennessee a 82 anni. Era soprannominato The Country Gentleman. Sentiamolo in Hey Joe, simbolo del bluegrass americano. Hey Joe, where'd you find that pearly curly? Where'd you get that jolly dolly? How'd you rate that dish I wish was mine? Hey Joe, she's got skin as creamy dreamy, eyes that look so lovey-dovey, lips as red as cherry berry wine. Now listen, Joe, let me tell you how I feel. She's a honey, she's a sugar pie. I'm warning you, I'm gonna try to steal her from you. Hey Joe, though we've been the best of friends, this is where our friendship ends. I gotta have that dolly for my home. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.